Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Si usano in media 20 minuti e durano 4 secoli. Avete qualche secondo per indovinare di cosa si tratta? Lo scopriremo tra pochissimo. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Prosegue la rassegna estiva di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Rassegna in cui vi riproponiamo una selezione dei temi che abbiamo trattato nel corso dell'anno. Un filo rosso collega oggi il tema del primo approfondimento al focus sui trend della seconda parte. Anche qui un indizio, plastic style. Prima ci sarà spazio anche per fare shopping in una tipologia di negozio che resiste alla crisi, che sta anzi attraversando un vero e proprio boom, i temporary store o pop-up store, i negozi a tempo. La borsa della spesa. Protagonista dell'approfondimento della settimana oggi, ecco svelato l'oggetto misterioso, è proprio la nostra shopper, il sacchetto di plastica che usiamo tutti i giorni per fare la spesa. Una riflessione che facciamo dal punto di vista ambientale, partendo dalla messa al bando delle buste di plastica che in Italia scatterà nel 2010, ma anche commerciale per le nuove possibilità di business che la rivoluzione verde comporta. Una doverosa premessa a quello che sarà poi, come annunciato, nella seconda parte il focus sui trend, dove continueremo a parlare della plastica ma come nuovo materiale di tendenza. Tempo di utilizzo 20 minuti, tempo di vita 4 secoli, piccole dimensioni, grande ingombro ambientale. Ogni anno nel mondo vengono diffusi 1 miliardi di sacchetti di plastica, tecnicamente polietilene. 10 miliardi di pezzi solo in Italia, 200.000 tonnellate. L'alternativa si chiama bioplastica o ecoplastica. È biodegradabile e comporta meno della metà in quanto ad emissione di anidride carbonica, come il Mater B, polimero ricavato dall'amido di mais. Anche carta, cartone, cotone e tessuti vari possono fare la differenza. La ventennale battaglia ambientalista contro i sacchetti di plastica ha dato i suoi frutti in molti paesi, dall'Australia alla Francia, dall'Irlanda alla Danimarca, da Taiwan alla Germania. Divieto di utilizzo o mini tassa ne hanno ridotto sensibilmente l'uso. In Italia la data simbolo è il 1 gennaio 2010, quando scatterà la loro messa al bando. I sacchetti biodegradabili sono da tempo già disponibili nella grande distribuzione. Li troviamo alle casse di molti supermercati accanto a quelli di plastica. Vengono però poco utilizzati da chi fa la spesa perché, bisogna dirlo, costano di più. C'è chi allora ha pensato di trasformare il sacchetto ecologico in un supporto promozionale dove poter stampare messaggi pubblicitari che colmino in pratica la differenza di prezzo. Risultato? Alla fine al consumatore costano come quelli tradizionali. L'obiettivo è quello di far incontrare domanda, offerta e obbligo di legge, ci dice Pier Cesare Villa, presidente di Arcadia Media, la società che ha avuto l'idea. La nostra idea di base è stata proprio quella di venire incontro a quella che è una normativa che dovrebbe entrare in vigore nel 2010, sempre che vengano scritti i decreti attuativi relativi, trovare degli sponsor che mettessero la loro pubblicità su una facciata del sacchetto e così facendo pigliavano, diciamo così, due piccioni con una fava, nel senso che potevano trasmettere sia un'immagine ecologica ai loro clienti e dall'altra parte promuovere i loro prodotti sul sacchetto, sullo shopper. Vantaggio per il consumatore è che continua a pagare questi sacchetti né più né meno il prezzo del classico sacchetto inquinante in plastica, quindi 3-4 centesimi circa. Il sacchetto, tra l'altro, questa tipologia particolare di sacchetto è indicata, essendo compostabile al 100%, per la raccolta dell'umido, per cui risparmia due volte, perché a quel punto a casa si ritrova un sacchetto che ha pagato come quello classico di plastica, ma non deve comprare i sacchetti per lo smaltimento dell'umido. Nel 2008, ultimi dati Confcommercio, ci sono state 40.000 chiusure di attività. Questa settimana la meta del nostro giro di shopping sono i temporary store, i negozi a scadenza. Ultima ricetta anticrisi. Ci racconta tutto Francesca Pelucchi. Negozi e negozianti non se la passano di certo bene, ma qualcuno sembra sopravvivere alla crisi. Sono i temporary shop, i negozi cosiddetti a tempo. pensati per restare aperti un mese e non soltanto per vendere, sono la rivoluzione del marketing non convenzionale. Dove muoiono i negozi di una volta, fioriscono i temporary. A trainare la tendenza, Milano, dove in un anno ne sono stati aperti più di 30. Giulio Di Sabato, presidente di Assotemporary, associazione che riunisce possessori di spazi adibiti a temporary store. Il temporary forse è l'unica innovazione di un mercato, non per colpa sua, ma diciamo un po' saturo, anche un po' obsoleto da un certo punto di vista. Perciò il temporary in questo momento è l'unica realtà che sta crescendo e non solo, diciamo, sta crescendo ex novo, ma alcuni negozi tradizionali di una volta magari stanno cambiando la loro struttura in temporary. Vetrine piazzate sulle strade delle principali città e un countdown ben visibile all'ingresso che ricorda al cliente quando il negozio chiuderà. Non più convincere, ma coinvolgere. Questa è la filosofia delle aziende che hanno l'occasione di farsi conoscere o testare con feedback immediato un nuovo prodotto. Per i consumatori, invece, il vantaggio di partecipare ad un evento esclusivo e acquistare prodotti in anteprima o in edizione limitata. I temporary shop sono spesso aperti all'improvviso, senza pubblicità, proprio perché puntano sull'effetto sorpresa e sul passaparola. Luca Pellegrini, professore di marketing all'Università Yulm di Milano. Oggi tenderei a dire che l'obiettivo commerciale sta diventando, sta passando in secondo piano, sta entrando sempre più in primo piano l'obiettivo invece di comunicazione, quindi io recupero parte dell'investimento che faccio nel temporary a fini di comunicazione, a fini di sperimentazione, attraverso la vendita che pur sempre riesco a fare con il temporary. E fra i tanti elementi di crisi che oggi ci sono, non mi sembra che si possa definire in crisi il temporary, almeno per la banale ragione che è iniziato oggi. Una vetrina nelle vie più glamour delle grandi città può costare fino a 30.000 euro alla settimana, cifra comunque di gran lunga inferiore rispetto ai costi di una campagna pubblicitaria tradizionale. Il fenomeno dei temporary shop è nato nel 2003 in Gran Bretagna, arrivando in Italia nel 2005. Prima azienda a sperimentarlo è stata l'americana Levi's, che aprì il suo store temporaneo a Milano, seguita poi da Lancôme, che approdò nella prestigiosa Via della Spiga. Nell'ultimo anno negozia tempo anche per Durex, Pirelli e Philips. L'azienda elettronica olandese, infatti, lo scorso Natale ha sperimentato a Milano il suo primo Simplicity Store, un temporary shop per far provare i suoi prodotti in una sorta di spa, lontana dal caos della metropoli. Davide Bertagnon, Project Director di Aegis Media Group, che ha curato l'evento per Philips. Il progetto era partito come un test, un pilota sulla città di Milano, come un progetto di branding. Si è trasformato in un progetto di esperienza sul consumatore. I consumatori entravano con un percepito di marca tra il 6 e il 6.5, uscivano con una media tra l'8.5 e il 9. Perciò il pre e il post ci hanno confermato che i prodotti spiegati in una determinata maniera danno al consumatore l'evidenza importante. Mai più senza. Lo sapete perché la Vespa si chiama così e perché rivoluzionò il modo di vivere e pensare la mobilità negli anni 50? Ce lo racconta Silvana Annichiarico, direttore del Triennale Design Museum, che cura il pezzo cult di questa settimana. Progettata nel 1946 dall'elicotterista Corradino d'Ascanio, che applica al design dello scooter il modello della struttura monoguscio utilizzata fin dalla metà degli anni 30 per la costruzione di fusoliere per l'aeronautica, la Vespa si chiama così per la sua vita sottile e per la struttura aerodinamica come quella dell'insetto. I primi esemplari sono prodotti in colore amaranto, poi viene adottato il modello standard del grigio metallizzato. La sua forma suscita meraviglia negli italiani. I giovani ne fanno subito una sorta di status symbol generazionale, ma il film di William Wyler, Vacanze romane del 53, a far conoscere lo scooter della Piaggio al mondo intero e a farne un vero e proprio mito. Il successo è travolgente: nel 46 gli stabilimenti della Piaggio producono solo una decina di Vespa al giorno, ma all'inizio degli anni 50 sono già oltre 500 gli esemplari quotidiani. Essere e avere. Diamo subito il benvenuto a Patrizia Martello. Bentornata Patrizia. Grazie, buongiorno. Direttore di ricerca dell'Istituto di Consulenza GPF, docente di Sociologia dei Consumi e della Moda all'Università di Bologna, ci accompagna come sempre nell'analisi delle nuove tendenze che occupa tutta questa seconda parte di Essere e Avere. Plastic Style è il titolo della puntata di oggi. Parliamo della nuova vita della plastica. Nella sua versione rivisitata, ovviamente eco-friendly, è diventata il materiale di tendenza per eccellenza. Spopola nella moda e nel design, ha grande versatilità di utilizzo anche in campi come la medicina e la diagnostica, è diventata una delle icone della creatività d'avanguardia. Da contenitore sotto accusa a contenuto raffinato, insomma, la plastica ha cambiato identità. Patrizia. Sì, la plastica, dopo aver cambiato il mondo, ha cambiato un po' il proprio e appunto ha cambiato pelle. Diciamo, è un po' meno materia prima, un po' meno elemento costitutivo e più protagonista, grazie anche, insomma, se guardiamo un po' alla sua storia, grandi marchi, per citarne alcuni come Cartel, come Swatch, che l'hanno davvero trasformata in un materiale icona, come dicevi, della creatività e dell'innovazione contemporanea. Ne hanno sfruttato le caratteristiche tecnologiche, la stabilità, la resistenza al calore, eccetera, e soprattutto ne hanno esplorato le potenzialità estetiche, e quindi siamo circondati da questi oggetti che sono leggeri, leggerissimi, ma solidi, versatili e soprattutto appunto riciclabili. Nella scia dei rivoluzionari orologi colorati e decorati di Swatch, oggi i too late, troppo tardi in italiano, sono gli orologi in plastica che impazzano tra i giovani italiani e anche tra quelli europei. Sono questi bracciali minimali coloratissimi con il quadrante rettangolare di minime dimensioni, bassissimo costo, 12 euro, arrivano direttamente dal MoMA Design Store di New York e sono in vendita, a proposito di plastica che passa da essere cheap a essere un materiale prezioso, nelle gioiellerie e anche nei design shop. La plastica, appunto, protagonista della nostra vita, rimarrà una risorsa irrinunciabile per il futuro, addirittura avrà un ruolo ancora più decisivo, ancora più strategico. Secondo quanto riportato in un recente rapporto sul futuro commissionato da Plastic Europe, l'impiego della plastica appunto sarà pervasivo nella medicina. Pensiamo già alle sperimentazioni su protesi muscolari, pensiamo alle telecomunicazioni e tutto il tema degli ologrammi, che è già una realtà negli Stati Uniti, ma anche nella vita di tutti i giorni in termini di salute. Conserveremo meglio gli alimenti grazie a nuove combinazioni dei polimeri. In termini di energia e ambiente, useremo materie plastiche per rendere più produttive alcune coltivazioni, oppure avremo auto realizzate con più componenti in plastica, quindi più leggere ma ugualmente resistenti, abitazioni meglio isolate con meno dissipazione energetica, eccetera eccetera. Sul piano dell'informatica, anche i processori diventeranno, pare, di 500.000 di volte più potenti grazie a questa nanotecnologia che utilizza i polimeri nei chip. Lo abbiamo citato anche poco fa, Swatch merita però una riflessione a parte, un'azienda che con la plastica ha fatto una vera e propria rivoluzione. Sentiamo la scheda. Frainteso dai più come la contrazione delle parole Swiss, svizzero e watch, orologio, Swatch in realtà deriva dall'unione di second e watch, dove secondo, a detta del suo creatore Nicolas Hayek, vuole indicare un nuovo concetto di orologio dallo stile casual, divertente ed economico. Quando esce sul mercato nel 1983, Swatch è un orologio rivoluzionario, alla cassa in plastica, e presenta solo 51 componenti contro i 91 o più generalmente utilizzati. In poco tempo ottiene uno straordinario successo, il più grande mai registrato nel settore. Successo che ha fatto della società madre, Swatch Group, l'azienda orologiera più grande del mondo, grazie all'acquisizione negli anni di molti marchi del lusso. A metà degli anni Ottanta gli Swatch diventano un vero e proprio cult, con l'idea di associarli ad artisti e designer famosi come Keith Haring e Alessandro Mendini, quello che fino ad allora era stato solo un accessorio per giovani, diventò un pezzo da collezione. Patrizia, questi erano gli anni Ottanta. Oggi la plastica serve ancora a reinventare gli oggetti? Ma l'anima sintetica, diciamo, delle nostre vite trova continuamente nuove espressioni, per cui dalle carte di credito agli stivali da passeggio, dal design ai vestiti, siamo veramente rivestiti di plastica. Di recentissima comparsa sulla scena degli accessori, le shuellas, crasi di shoes, scarpe e ombrello, è proprio un ombrello per le scarpe. Ideate da Rebecca Miller, sono la versione super fashion delle galosce copriscarpe, quindi una vecchia idea. Si portano in borsa, in caso di pioggia improvvisa si indossano, cioè fasciano proprio la scarpa, sono molto belle da vedere, molto colorate. Anche Camper, rimanendo in tema di scarpe, il marchio di calzature spagnolo, in collaborazione con il designer Alfredo Heberli, ha creato una linea di scarpe con copriscarpa in plastica su misura. Poi c'è tutto un universo interessantissimo delle borse, delle shopping bag. Moltissime sono state create in plastica o in tessuto contro la plastica per lanciare messaggi ecosostenibili. GreenAid, per esempio, ha fatto una shopping bag con la scritta "Guerra alla plastica", con dei charms porta accessori a forma di granata. Poi ricordiamo tutti il caso della borsa eco-friendly "I'm not a plastic bag", non sono una borsa di plastica, della designer Anya Hindmarch, che era diventata un must per tutte le vittime eco-fashion. Ebbene, in questi giorni la risposta a questa borsa è uscita la shopping bag con la scritta "I am a plastic bag", sono una borsa di plastica, lanciata dal sito inglese Holy Moly. È andata a ruba, nonostante sia un oggetto, o forse proprio per questo, ambientalmente irresponsabile, non è già più in vendita. In realtà, diciamo, vista l'altissima riciclabilità della plastica, anche chi compra questa borsa in maniera ostentata può in realtà fare una buona azione pro ambiente se e quando se ne disfa, semplicemente buttandola nel contenitore giusto. L'arte in tema di riciclabilità dei sacchetti di plastica, già banditi tra l'altro in molte città, esprime un'idea che mi è piaciuta moltissimo. L'artista di strada Joshua Allen Harris a New York ha creato queste bellissime sculture gonfiabili, un aggregato di pezzi di sacchetti di plastica usati, appoggiati sulle grate dei sottopassaggi pedonali nel metro di New York. Quando c'è il soffione del flusso d'aria dei treni, ecco che prendono vita, si gonfiano e diventano animali. E a Milano c'è un posto dove si possono vedere, toccare e studiare tutti i tipi di plastica. Si chiama Materioteca, una via di mezzo tra un museo e un laboratorio. Per saperne di più abbiamo in collegamento la direttrice Diana Castiglione. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a tutti voi. Materioteca è allo stesso tempo uno strumento di lavoro per i progettisti e un luogo di incontro tra i tecnologi e i creativi. Quanto è importante oggi il risvolto ambientale per la plastica? Ma è sempre stato importantissimo, perché le materie plastiche ci hanno consentito di conservare le risorse naturali, conservarle attraverso un consumo energetico inferiore dato dalla leggerezza, dato dalla riciclabilità, e quindi oggi la tendenza eco-eco, l'economicità si sposa con l'ecologia, perché dove risparmio il materiale risparmio l'ambiente e risparmio anche il portafoglio. Riciclo che diventa anche in qualche modo uno stimolo creativo. È così? I progettisti che vengono da voi tengono in considerazione questo aspetto nello studio dei loro progetti? Noi cerchiamo di instradarli verso quel senso, di non pensare soltanto al ciclo dell'andata, dalla produzione al consumo, ma anche contestualmente con l'ideazione della nuova applicazione, del nuovo oggetto, al ciclo del ritorno, dal rifiuto al riciclo, cioè dal consumatore a un'altra volta alla produzione. Grazie a Diana Castiglione per essere stata con noi. Grazie a voi tutti e buona giornata. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Londra su plastica e dintorni? Ce lo raccontano come sempre le nostre Urban Watcher di Memi, Elena Marinoni, bentornata. Grazie e buongiorno a tutti. C'erano una volta le scarpe da scoglio, altrimenti note presso alcuni come le granchie, interamente realizzate in gomma, non si può dire che donassero, perché sì, erano simpatiche, anche comode, però l'estetica lasciava un po' a desiderare. Fortunatamente nel frattempo il design con la D maiuscola si è appropriato anche di questo segmento e, scusate il gioco di parole, gli ha letteralmente fatto fare passi da gigante, alcuni grandi progettisti di spicco, ad esempio, sono stati recentemente invitati dall'azienda britannica Melissa a dare forma e sostanza rigorosamente plastica ai loro sogni in fatto di calzature. I risultati, nonostante i prezzi contenuti, sono decisamente accattivanti, rivolti poi ad un target proprio di fashion victim. Tra le altre, le Night Sky Melissa, serie limitata in plastica tempestata di Swarovski, le Vinyl con zeppe da pin-up, le Mary Jane con tacco a rocchetto e le ballerine Anglomania di Vivienne Westwood, oppure le Melissa progettate dall'archistar Zaha Hadid. Poi non potevano mancare i fratelli brasiliani Campana, che fedeli alla loro poetica dell'attorcigliamento hanno progettato le Zig Zag. 39 euro. Le Zig Zag sono generate dalle sinuose evoluzioni di un filo di gomma e promettono di essere il più ambito oggetto del desiderio della prossima estate. Grazie Elena. Patrizia, c'è chi dice che la plastica tradizionale, quella che deriva dal petrolio, diventerà come l'oro. Quindi quale futuro si preannuncia? La ricerca giocherà un ruolo fondamentale? Sì, infatti pare che la vera rivoluzione delle rivoluzioni sarà la bioplastica, cioè materiali sintetici realizzati a partire da materiale organico, e questa potrebbe essere la soluzione sia al tema economico del costo della plastica, sia al tema del riciclo, che in realtà non sfiora nemmeno il 10% del totale di questi eterni oggetti plastici che invadono il mondo. Termina qui anche questa puntata di Essere Avere Estate, il meglio di della stagione. L'appuntamento è per domenica prossima, come sempre, dopo il GR delle 13. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.